755. Gelato di fragole. Fragole ben mature, grammi 300. Zucchero bianco fine, grammi 300. Acqua mezzo litro, un grosso limone di giardino, un arancio. Fate bollire lo zucchero nell'acqua per 10 minuti a cazzarola scoperta. Passate dall'ostaccio le fragole e il sugo dell'arancio e del limone. Aggiungete il siroppo dopo aver passato anche questo, mescolate ogni cosa e versate il composto nella sorbettiera. Questa dose potrà bastare per 8 persone. 756. Gelato di lampone. Il lampone, essendo un frutto che, ad eccezione del suo aroma tutto speciale, è quasi identico alla fragola, per gelarlo regolatevi nella stessa guisa ed escludete l'arancio.